Sura 26esima. Ash-Shu'ara. I poeti. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ta-Sin Mim. Questi sono i versetti del libro chiarissimo. Forse ti affliggi perché essi non sono credenti. Se volessimo, faremmo scendere su di loro un segno dal cielo, di fronte al quale piegherebbero il capo. Non giunge loro alcun nuovo monito del compassionevole, senza che se ne allontanino. Lo hanno tacciato di menzogna, ben presto avranno notizie di ciò che scherniscono. Non hanno visto quante nobili specie abbiamo fatto germogliare sulla terra? Questo è davvero un segno, ma la maggior parte di loro non crede. Sì, il tuo Signore è l'Eccelso, il Misericordioso. Ricorda quando il tuo Signore chiamò Mosè. Recati presso il popolo degli oppressori, presso il popolo di Faraone. Non avranno timore di me? Disse, Signore, in vero temo che mi trattino da bugiardo. È oppresso il mio petto e la mia lingua legata. Manda Aronne piuttosto. Di fronte a loro io sono in colpa. Temo che mi uccidano. Disse, invece no, andate entrambi con i nostri segni, noi saremo con voi e ascolteremo. Andate da Faraone e ditegli, noi siamo gli inviati del Signore dei mondi, affinché tu lasci partire con noi i figli di Israele. Rispose, non ti abbiamo forse allevato presso di noi quando eri bambino? Non sei forse rimasto con noi molti anni della tua vita? Poi hai commesso l'atto di cui ti macchiasti e fosti ingrato. Disse, ho fatto ciò quando ancora ero uno degli smarriti. Sono fuggito da voi perché ho avuto paura di voi. Ora il mio Signore mi ha dato il discernimento e ha fatto di me uno dei suoi messaggeri. Mi vuoi forse rinfacciare questo favore mentre schiavizzi i figli di Israele? Disse Faraone, e chi è questo Signore dei mondi? Rispose, il Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è tra essi, se solo poteste esserne convinti. Disse Faraone a quelli che lo attorniavano, non avete sentito? Disse Mosè, è il vostro Signore, il Signore dei vostri antenati più lontani. Disse Faraone, davvero il messaggero che vi è stato inviato è un folle. Disse Mosè, è il Signore dell'Oriente e dell'Occidente e di ciò che vi è frammezzo, se solo lo capiste. Disse, se prenderai un Dio dall'infuori di me, certamente farò di te un prigioniero. Rispose Mosè, anche se ti portassi una prova evidente? Disse, portala dunque, se sei fra i veritieri. Gettò il suo bastone, ed ecco che divenne palesemente un serpente. Trasse la sua mano, ed essa apparve bianca a coloro che guardavano. Disse Faraone ai notabili che lo attorniavano, è davvero un mago sapiente. Vuole cacciarvi dalla vostra terra con la sua magia. Ebbene, che cosa deliberate? Dissero, rimanda a lui e suo fratello e invia messi nelle città, affinché ti conducano ogni grande mago sapiente. Si riunirono i maghi per l'incontro nel giorno stabilito. E si disse al popolo, vi riunirete in massa così da poter seguire i maghi se saranno vincitori? Poi, quando i maghi furono convenuti, dissero a Faraone, davvero avremo una ricompensa se saremo vincitori? Rispose, sì, e in tal caso sarete tra i favoriti. Mosè disse loro, gettate quello che avete da gettare. Gettarono le loro corde e i loro bastoni e dissero, per la maestà di Faraone saremo noi i vincitori. Gettò Mosè il suo bastone ed esso inghiottì i loro artifici. Allora i maghi si gettarono in prosternazione, dicendo, crediamo nel Signore dei mondi, il Signore di Mosè e di Aronne. Disse Faraone, Crederete in lui prima che io ve lo permetta? In verità è lui il vostro gran maestro, colui che vi ha insegnato la magia. Presto imparerete a vostre spese. Vi farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere tutti quanti. Risposero, non sarà un male. Al nostro Signore faremo ritorno. Bramiamo che il nostro Signore perdoni i nostri peccati per essere stati i primi a credere. E rivelammo a Mosè, fa partire i miei servi nottetempo. Certamente sarete inseguiti. Faraone mandò messi in tutte le città perché dicessero, in vero sono un gruppo esiguo e ci hanno irritato, mentre noi siamo ben vigili. Facemmo sì che abbandonassero giardini e fonti, tesori e graziose dimore. Così fu, e tutto demmo in eredità ai figli di Israele. Al levarsi del sole li inseguirono. Quando le due schiere si avvistarono, i compagni di Mosè dissero, saremo raggiunti. Disse Mosè, giammai, il mio Signore è con me e mi guiderà. Rivelammo a Mosè, colpisci il mare con il tuo bastone. Subito si aprì e ogni parte dell'acqua fu come una montagna enorme. Facemmo avvicinare gli altri e salvammo Mosè e tutti coloro che erano con lui, mentre annegammo gli altri. In verità in ciò vi è un segno, ma la maggior parte di loro non crede. In verità il tuo Signore è l'eccelso, il misericordioso. E recita loro la storia di Abramo. Quando disse a suo padre e al suo popolo, cosa adorate? Risposero, adoriamo gli idoli e resteremo fedeli a loro. Disse Abramo, vi ascoltano quando li invocate? Vi giovano o vi recano danno? Risposero, no, ma trovammo i nostri avi che facevano così. Disse, avete ben riflettuto su ciò che avete adorato, sia voi che i vostri lontani antenati? Essi sono tutti i miei nemici, eccetto il Signore dei mondi, colui che mi ha creato e mi guida, colui che mi nutre e mi dà da bere, colui che quando sono malato mi guarisce, colui che mi farà morire e mi ridarà la vita. Ed è da lui che bramo il perdono delle mie colpe nel giorno del giudizio. Signore, dammi discernimento e annoverami tra i giusti, concedimi la stima sincera dei posteri, fa che sia uno degli eredi del giardino delle delizie, e perdona mio padre, davvero è stato uno degli sviati. E non coprirmi di abominio nel giorno in cui gli uomini saranno resuscitati, il giorno in cui non gioveranno né ricchezze né progenie, eccetto per colui che verrà ad Allah con cuore puro. Il giardino sarà alla portata dei timorati, e la fornace apparirà per i traviati. E verrà detto loro, dove sono coloro che adoravate all'infuori di Allah? Vi sono d'aiuto o sono d'aiuto a loro stessi? Vi saranno gettati loro e i traviati, e tutte le schiere di Iblis. Diranno, disputando tra loro, per Allah, certamente eravamo in errore evidente quando vi considerammo uguali al Signore dei mondi. Coloro che ci hanno sviato non sono altro che iniqui, per noi non ci sono intercessori e neppure un amico cordiale. Se solo ci fosse possibile un ritorno, saremmo allora tra i credenti. Questo è davvero un segno, ma la maggior parte di loro non crede. In verità il tuo Signore è l'eccelso, il misericordioso. Il popolo di Noè tacciò di menzogna agli inviati. Ricorda quando il loro fratello Noè disse loro, «Non sarete dunque timorati? In vero sono per voi un messaggero degno di fede. Temete Allah e obbeditemi. Non vi chiedo ricompensa alcuna, che la mia ricompensa è presso il Signore dei mondi». Temete Allah e obbeditemi. Risposero,